quando senti l'orchestrina tra una danza americana che strimpella una mazurka dall'aria paesana. Pensi allora alla quadriglia ed un bel tempo che passò, quando usava la pariglia attaccata all'andò, quando non c'erano i tanghi e i foxtrot. Alla mazurka che ballava la mia nonna, con le trecce a penzoloni e con i mutandoni sotto la sua gonna. Quando mio nonno, per baciare la sua mano, non usava la scaletta ma la bicicletta fino al primo piano. I giovincelli di 20 anni o poco più, com'eran belli, coi baffoni per l'insù. Alla mazurka d'un bel tempo assai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. Or si balla la carioca, il sassofono rimbomba, ma mio nonno suona ancora il grammofono a tromba. Pensa in me con nostalgia all'antica gioventù, quando allora ogni Maria non era Mariù. Com'era bello quel tempo che fu, alla mazurka che ballava la mia nonna, quando al Valle d'Almanzoni c'era già Falconi e Galli prima donna. Quando mio nonno, caporal di fanteria, stava 4 giorni in posa per mandare a Rosa la fotografia. Finché il progresso l'automobile inventò, oh che successo, la vertigine, lo sport. Allor mio nonno divorava monti e valli, 3 chilometri in un'ora con la 2 cilindri a 5 o 6 cavalli. Oh, la mazurka ci ritorna da lontano, era il ballo di mia nonna, oggi è un ballo americano. Dondolava, chi strisciava piano piano, or si balla con i piedi ed anche con la mano. Mentre tu guardi ogni coppia che si apparta, te la fa ballar tua moglie con il conto della sarta. La balli al cine quando vedi quei filmoni con attori giovanissimi, gran matica e zapponi. Quando alla radio c'è un programma nuovo e bello, col famoso trio lescano e il foxtrot del Somarello. Con questa danza tu puoi farti ben capire, quando incontri qualche amico che ti chiede 100 lire. Questa è la danza 900 stile inglese, se vi piace di